riesce ad amare solo chi non vuole difendersi dall'amore. Per me amore vuol dire aver incontrato te. Il cammino di Gigi D'Agostino, musica che unisce. I'll survive you, I will survive you. Well, it's too late, I know, to change the way we go. From this day on, I want to stay on. Now that I've started learning and the tide started turning, well, it's here. I don't know what else to do. Gigi D'Agostino, mica noccioline. Del Gigi D'Agostino te caccia via lo spirito maligno. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Fermiamo quel minimo, riprendiamo il cammino tra qualche minuto. È un mondo difficile, lo so, però M2O. musica allo stato puro. Ti ripigli di sicuro. Signore e signori, Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Wow.